sole che nasce, sole che galleggi sull'aria gialla, leggero e solo. Mi ritrovo a calpestare ancora il terreno duro di questa strada. Io sono ancora e guardo dietro di me a tutti quelli che mi salutano con la mano. E così vado. Sole che cresce, sole che riscaldi quest'ombra scura, solo e leggero. Mi invento un sentiero per andare a raggiungere la mia vita che scorre. Io ancora sole lascio dietro di me molti piedi che mi salutano con la mano, eppure vado. Leggerezza è oltre, in qualche luogo esiste, so che c'è. Il torpore è una coltre sul mio corpo grigio, esiste, so che c'è. Vado per lasciarlo a terra, vado perché la leggerezza è oltre, in qualche luogo esiste, so che c'è. Sole che scende, sole che ti addormenta in ombre distese, leggero e solo. C'è un passaggio che cerco di trovare come uno strappo in questo tendone. Io sono ancora e guardo davanti a me, c'è qualcuno in piedi a salutarmi con la mano. Là dove vado, la leggerezza è oltre, in qualche luogo esiste, so che c'è. Il torpore è una coltre sul mio corpo grigio, esiste, so che c'è. Vado per lasciarlo a terra, vado perché la leggerezza è oltre, in qualche luogo esiste, so che c'è.